Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati in viaggio con Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa come ogni settimana. Come di consueto, Valeria, iniziamo dai nostri titoli, dal menù. All'estero, in Polonia, andiamo a Danzica, dove la storia incontra la modernità. In Italia, incarnia tra i colori ed il fascino delle montagne del Friuli Venezia Giulia. Nord a chilometro zero, il villaggio operaio di Crespidadda, un modello dentro e fuori la fabbrica. Sud a chilometro zero, Petralia, nel Parco delle Madonie, la Sicilia interna affascinante come quella costiera. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Anna, questa è la colonna sonora di un film, L'Uomo di Ferro, che racconta dello sciopero nei cantieri di Danzica del 1980 e la nascita di Solidarność. Quindi, come era facile intuire, questa settimana ti porto in Polonia. Devo confessare che io stessa non ci sono mai stata, ma è un paese che mi incuriosisce moltissimo, perché la storia europea degli ultimi 80 anni passa da questo paese. E allora sono andata alla ricerca di chi potesse aiutarmi a capire non solo la Polonia, ma a raccontarmi anche la città che viene nominata meno rispetto a Varsavia e Cracovia. Ho incontrato Roberto Polce, che ormai vive a Danzica da anni e conosce anche la psicologia dei polacchi. Mi sono fatta raccontare la sua storia, il perché lui si è trasferito in Polonia, e attraverso la sua storia, vedrai Anna, ti verrà voglia proprio di scoprire Danzica. Io sono arrivato a Danzica in realtà negli anni 90 per la prima volta, anzi anni 80, quando qui si parlava molto di Solidarność, ovviamente di Wałęsa. Io feci il primo viaggio di studio, perché ho studiato lingua e letteratura polacca qui alla Statale a Milano, corso estivo a Varsavia. Andai lì e poi mi feci dare un permesso speciale, perché eravamo sotto Jaruzelski, quindi stato di guerra, per poter andare a Danzica 3 giorni e visitare questa città che per me era un mito, era una città leggenda. Sono andato lì e ho scoperto che, a parte i cantieri navali, una città grigia, palazzoni comunisti, c'era una città bellissima accanto, che è quella gotica rinascimentale che mi ha affascinato. Questo miscuglio, diciamo così, di storia, perché poi Danzica è la città dove è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, poi la città dove appunto è nata Solidarność, che è all'inizio della caduta del muro di Berlino, e questo miscuglio, dicevo, di storia e di architettura, di bellezza, mi ha stregato. Oltre a questo aggiungi la natura, perché lì alle spalle abbiamo una fascia di boschi meravigliosa, che è un polmone incredibile, e parchi tutto intorno sul stesso territorio di Danzica, e dall'altra parte abbiamo il mare, il Baltico. Dovrebbe essere definita una conurbazione di 3 città, Danzica, Sopot e Gdynia, a una distanza di mezz'ora di treno urbano, la prima dall'ultima, quindi Danzica da Gdynia. Tu vuol dire che a seconda del tuo umore, la mattina ti svegli, non hai un umore gotico, sei a Danzica, ho un umore modernista, a cavallo tra le due guerre, prendo il treno, vado a Gdynia e mi faccio una bella immersione di moderno, da tutti i punti di vista. Ci hai già risposto alla domanda perché uno dovrebbe venire a Danzica, perché diciamo, se uno pensa alla Polonia, forse non è la prima città a cui si pensa Danzica, la prima da andare a vedere, a visitare. Però se tu dovessi scegliere 3 cose da mostrare a un ipotetico amico che viene lì a vedere Danzica, che cosa gli suggeriresti? In primo luogo, ovviamente, la città storica di Danzica è una città anseatica, dove l'elemento dominante è il gotico in mattoni e poi il tardo rinascimento, o il manierismo fiammingo, come lo chiamano, è molto bello. Per fare un esempio, cosa vuol dire? Vuol dire che voi andate lì e vi sembra di essere nelle Fiandre o nell'Olanda, che è una cosa curiosa che intanto affascina le persone che arrivano lì dopo aver visitato il resto della Polonia, perché da questo punto di vista Danzica è unica perché è una città anseatica, quindi commerciava con le altre città del Baltico, del Mare del Nord, e esportava merci, ma non essendo avanzata dal punto di vista artistico, poi importava architetti da là, quindi questa atmosfera che è già diversa. Il secondo, assolutamente, Solidarność. Hanno fatto, appena inaugurato l'anno scorso, è stato inaugurato questo museo nuovo, si chiama Centro Europeo Solidarność, dentro cui c'è anche un museo interattivo che è bellissimo. Quando accompagno i miei visitatori e gli propongo, dice, andiamo a visitare il museo di Solidarność, cominciano a vedere smorfie, no, un museo, no, Solidarność, no, li porto dentro e poi rimangono affascinati, perché è talmente coinvolgente, talmente avvincente, e poi, ripeto, è storia nostra, la storia dei nostri giorni, quindi tutto è nato lì. La terza cosa è l'Ambra, Danzica è la capitale mondiale dell'Ambra, che secondo me è un materiale magico, non è semplicemente un materiale, cioè, come dire, non è una pietra, allora lo chiamano pietra, però è una resina fossile di 40-50 milioni di anni fa, che si è sovraccaricata nei millenni di valenze, appunto, oltre che estetiche, magiche, terapeutiche, di tutto di più, apotropaiche, quindi scaccia anche il malocchio, scaccia gli spiriti cattivi, ed è una cosa. Danzica è il maggior centro, viene definita la capitale mondiale dell'Ambra, c'è una fiera che è la più grande del mondo, la più importante del mondo, e ci sono in queste piccole vie del centro storico sono decine di botteghe che vendono questi prodotti in Ambra. Secondo te Danzica è una città a buon mercato o ci sono ad esempio delle trappole per turisti più costose che bisogna evitare? No, è una città a buon mercato, l'unica avvertenza che è quella della strada principale, quella più turistica, che si chiama Strada Reale, che percorreva il re di Polonia quando veniva in visita a Danzica. Evitare lì, ma non per, un po' perché possono essere un po' più cari, ma anche perché sono meno interessanti. Tutte le vie delle altre vie della città vecchia sono piene di locali, di ristorantini, veramente si spende per mangiare veramente bene o per bere qualcosa di buono, si spende veramente poco. Tieni conto che una birra alla Spina, buonissima, però ci sono molti birrifici artigianali sparsi per la città che producono la loro birra, fai conto che se proprio va male spendi 2 euro per una birra grande, insomma, no? Attenzione un attimino ai cambi, questo in tutta la Polonia, sono alcune agenzie che hanno, hanno un cambio poco favorevole. Guardate bene il cambio di vendita e di acquisto, se non espongono tutti e due i cambi vuol dire che c'è una trappola, quindi chiedete a quanto comprano i vostri euro. Per il resto no, poi è una città bella, tranquilla, come quasi tutte le città della Polonia, pochissima microcriminalità, quasi non si sente, molto rilassato, quindi devo dire che non c'è nessuna trappola particolare a cui bisogna stare attenti. Tu accennavi al cibo e io qui ti volevo perché voglio capire se per un palato particolare come quello italiano la Polonia può essere un buon paese. Sì, secondo me sì. Allora, tutti quelli che vengono lì, che non è tipico di Danzica, della Polonia in generale, quelli che sono già stati arrivano lì con aria sognante, i pieroghi, dove possiamo mangiare i pieroghi, che sono questi ravioloni con ripieni diversi, quindi a parte questo, intanto la cucina polacca adesso si sta molto rinnovando, quindi in estate magari che è un po' più fresca, più leggera, però d'inverno devo dire che la cucina che si fa lì va benissimo, che è molto corroborante, molto nutriente. È un fenomeno molto più diffuso in Italia che in Polonia. In questo momento vegetariani dicono oddio cosa mangiamo, perché i polacchi tradizionalmente sono carnivori, questo è vero, però ormai anche a Danzica, in tutta la Polonia, c'è una rete di ristorantini vegetariani un po' dappertutto, ogni passo. Quindi poi se proprio uno dice no, guarda, proprio non ce la faccio a mangiare la cucina polacca che è troppo tosta, troppo pesante. A questo punto ci sono anche ristoranti nella Via Lunga, per esempio, c'è nella Strada Reale, c'è un ottimo ristorante di cucina italiana, veneziano, dove c'è un pizzaiolo di Pompei, uno chef di Venezia, quindi voglio dire... Italiani arrivano dappertutto. Senti Roberto, invece volevo chiederti un'altra cosa, è una città secondo te adatta anche ai bambini? Assolutamente sì, allora tieni conto che intanto i polacchi amano molto i bambini, quindi hanno un rispetto sacro per tutto quello che è legato all'infanzia, e le città polacche, Danzica in particolare, si stanno attrezzando moltissimo per questi. Nell'ultima presentazione che hanno fatto hanno proposto proprio tutta una sezione per le vacanze per le famiglie con bambini. Nello stesso centro europeo Solidarno c'è tutto uno spazio per i bambini giocano e apprendono in qualche modo la storia recente della Polonia. Si prende un piccolo battello, si va nella penisola di Hel, che è questa penisola lunga 34 km che chiude il Golfo di Danzica dal Baltico aperto, e su questa penisola in fondo, bellissima poi d'estate, villaggi di pescatori eccetera, e in fondo c'è il focarium, che è uno spazio bellissimo dove loro stanno recuperando la foca grigia del Baltico che si era quasi estinta, e lì ogni giorno ci sono questi spettacoli bellissimi per grandi e piccini. Si va a Gdynia, nell'alta delle Tre Città, e lì c'è un centro della scienza che si chiama Experiment, che è fatto apposta per i bambini. Essendo la Polonia un paese molto giovane, immagino che anche per i giovani sia una meta consigliata. qui sfondi una porta aperta. Allora Sopot, che è quella centrale delle tre città, che è questa città, viene chiamata la capitale estiva della Polonia perché è una città balneare di villeggiatura sviluppata a cavallo fra 800 e 900. Oggi lo slogan che loro si sono dati è Sopot never sleeps, non dorme mai. Quindi a Sopot si vanno i giovani apposta perché sono locali per tutti i gusti, con musica per tutti i gusti o semplicemente un posto dove andare a incontrarsi, e effettivamente sono locali che sono aperti fino all'ultimo cliente. Ci vediamo a Danzica. Ci vediamo a Danzica. Valeria, oltre che sono molto molto incuriosita, come mi avevi preannunciato, io non sono mai stata in Polonia e mi affascina tantissimo per il motivo che dicevi tu, anche da un punto di vista, diciamo, storico-politico. Poi ci sono anche tanti voli low cost. Tantissimi voli low cost che ovviamente aiutano a esaudire questo desiderio. Pensa al turismo, quanto è cambiato con i voli low cost e quanto ci consente oggi di spostarci anche per brevi periodi, anche perché suppongo che per visitare Danzica non ci vogliano tanti giorni. No, però come avrai sentito dall'intervista con Roberto, poi ci sono altre possibilità di spostamenti intorno a Danzica, quindi sicuramente se hai anche qualche giorno in più a disposizione, questo può essere impiegato per spostarsi, andare a vedere altre cose, altre città, altri luoghi, e quindi scoprire ancora di più di questo paese. E poi c'è l'Ambra, che è una cosa molto curiosa. Io non lo sapevo, infatti quando me l'ha raccontato sono rimasta molto colpita. Bello, bello, io avevo delle collane di Ambra che adesso in realtà in giro vedo molto meno, però... È vero, è un periodo che non si portano più, come si suol dire. Persino per i monili siamo oramai alla moda. Valeria, io ti riporto invece in Italia, per la precisione nel sud Italia, in una Sicilia niente affatto scontata. Chilometro zero. Porto Valeria, per la precisione, in due comuni che fanno parte del Parco delle Madonie. Uno dei due è il comune più alto delle Madonie. In realtà il comune unico si chiama Petralia, ma è suddiviso in Petralia Soprana e Petralia Sottana, ed è questa un po' la particolarità. Petralia Soprana è una città nobilissima per storia e tradizioni e vanta un patrimonio urbanistico, monumentale, artistico veramente di grande rilievo. Ci sono due bellissime chiese, la chiesa Madre e la chiesa di Santa Maria di Loreto, e poi ci sono da visitare l'acquedotto romano, la barocca Villa Sgadari, una delle più interessanti residenze di tutte le Madonie. E poi poco distante, adagiata invece su uno sperone di roccia alla sinistra del fiume Imera, c'è Petralia Sottana, che anche lei ha numerose chiese e palazzi di indubbio valore artistico. Insomma, è una Sicilia particolare, però è una Sicilia certamente da vedere. Io le ho viste, la Soprana e la Sottana, e sono molto belle. Come al solito torniamo in Sicilia, che è per noi sempre un posto del cuore, a noi piace molto, lo avranno capito anche gli ascoltatori perché ne abbiamo parlato spesso nel corso di queste puntate. E poi ci piace raccontare una Sicilia non scontata, come abbiamo detto. Anna, a questo punto dobbiamo fermarci per qualche istante, però restate con noi. Globetrotter 24. Valeria, questa settimana per la nostra meta italiana ti porto in Friuli Venezia Giulia, per la precisione in Carnia, in provincia di Udine. Il nome della Carnia deriva dalla popolazione dei Carni che dominò l'intero Friuli tra il V e il II secolo avanti Cristo. In epoca romana, pensa, la Carnia era parte del Carnorum Regio, la terra abitata dai Carni descritta da Tito Livio, che probabilmente poi comprendeva tutto l'odierno Friuli. Paesaggi molto belli, molto distensivi, nei quali si può fare molto sport, soprattutto i bambini possono godere di un contatto con la natura che si può definire senza ombra di dubbio straordinario. Della Carnia ho parlato con Massimo Peresson, che è il presidente di Carnia Welcome, che è un consorzio pubblico-privato che si occupa proprio della promozione turistica della zona. Lui la conosce davvero molto bene, c'è nato, ma appunto si occupa anche lui di turismo. Per introdurlo, che dici, una bella polca? Diciamo che la Carnia è integra anche proprio a livello paesaggistico, abbiamo una natura ancora perfetta, ancora a livello anche proprio di varietà botaniche, tre volte non so le varietà della Germania. abbiamo un verde che va da tutte le sfumature, dal verde chiaro al verde più scuro, e poi abbiamo una varietà di fiori, di erbe, che non si riscontra in quasi nessun posto in Europa. Che tipo di turismo c'è attualmente in Carnia? Un turismo giovane, un turismo sportivo? Sì, al di là magari di quello che la vecchia nomea un po' della Carnia, del turismo magari per 40 anni, invece stiamo vivendo una nuova fase, ci sono tanti giovani, tanti ciclisti, tanti escursionisti. Diciamo che anche il brand dello Zoncolan ha portato ad avere anche dei ciclisti che vengono a cimentarsi, chi in discesa o chi in salita, per fare lo Zoncolan, per fare questa montagna quasi sacra ormai ai ciclisti, che è la salita più dura d'Europa. Abbiamo anche delle belle escursioni in quota di bici trekking o mountain bike, insomma, che abbiamo degli anelli e dei sentieri che ci permettono di fare delle escursioni che possono durare anche tutto l'arco della giornata. C'è un periodo migliore per visitare la Carnia, secondo te? No, secondo me questo è il periodo migliore. Comunque noi non abbiamo mai l'affollamento delle grandi stazioni o di altre stazioni, no, nostre concorrenti. La nostra montagna è sempre vivibile, è sempre a portata d'uomo, e poi quello che è di diverso da altre montagne è che è vera ed è ancora una montagna praticata, fruibile, è una montagna dove ci sono ancora le realtà artigiane, le varie imprese agricole che lavorano i terreni agricoli, che si occupano dello sfalcio, che hanno anche un prodotto di qualità e quasi è di nicchia, però rimane abbastanza un prodotto di alta qualità. Sul sito di Carnia Welcome ci sono tante opportunità che vengono offerte ai turisti, ma ricordo che sei tu stesso proprietario di un bellissimo agriturismo ad Arta Terme. Una scelta, quella dell'agriturismo, che consente anche di fare delle belle vacanze per i bambini, vero? Ma sì, consente di far vivere ai bambini la realtà della fattoria, e per questo voglio spendere una lancia anche però a favore degli alberghi. Gli agriturismi non devono diventare alberghi, devono essere fattorie che ospitano, perché devono far vivere, il contatto con gli animali, con la natura, con quello che è anche la vita di fattoria e, nel mio caso, la vita di scuderia. Comunque in Carnia abbiamo anche delle realtà alberghiere, insomma, di livello potrei dire alto. Abbiamo anche degli alberghi con il centro benessere, con piscine, con di qualità, che se fossero da altre parti sarebbero pluristellati superiormente a quello che sono attualmente da noi. Potrei citarne, ma non voglio magari fare dei figli e dei figliastri. Certo. Abbiamo degli alberghi di altra qualità, tipo il Perla della Vista a Ravascletto, come ne abbiamo a Sauris, Rigelhaus ad esempio, che è fornito di centro benessere e tutto quello che serve. Diversa la realtà di Arta, che ha degli alberghi di alta qualità con centro benessere, ma incentivati sul termalismo. Non vorrei adesso dimenticare Arta Terme, perché è una delle stazioni turistiche nate per prime nella nostra regione. Ricordiamo che da noi c'è già stato il Carducci, adesso abbiamo anche le terme rinnovato, abbiamo restaurato anche tutto il comparto delle saune, del centro benessere. Abbiamo un termalismo con una qualità dell'acqua non riscontrabile in altre terme. Le nostre acque hanno dei pregi e dei benefici che non si trovano in altre acque. Quindi una vacanza in Carnia consente di fare più cose, abbiamo detto escursioni, abbiamo detto le terme, e poi ci sono anche i percorsi a piedi o a cavallo nei luoghi della Grande Guerra. Ecco, sulle trincee, i percorsi, noi abbiamo delle trincee, dei musei aperti, sia di qua che di là del confine, e da noi si può vivere proprio un'esperienza e andare a vedere proprio com'erano le trincee nostre, le trincee austriache, come erano anche gli equipaggiamenti austriaci ed italiani nei due musei che abbiamo sulla Grande Guerra, di Timau e di Kecek Mountain. Senti, veniamo ai costi. Noi abbiamo detto che ci sono più tipi di strutture. È una vacanza costosa quella in Carnia oppure la si può organizzare come si vuole a seconda delle disponibilità economiche? No, in Carnia si parte da una, parliamo di mezza pensione, che è quella che va per la maggiore, perché in un territorio dove magari il giorno ce lo si spende il giorno girando, andando a conoscere tutto quello che abbiamo detto prima, la mezza pensione, cosa che va in Carnia, si può, la mezza pensione parte dai 20 euro in su. Abbiamo delle offerte nei hotel che ho citato prima e anche negli hotel con centro benessere come Gardelle, Gorfani ed Arta e gli altri che ho citato prima, che partono da 50 euro pensione completa. Prima di salutarti e di ringraziarti, Massimo, volevo chiederti, sono tanti i percorsi che si possono segnalare, ma ce n'è qualcuno a cui tu sei più legato e perché? Ma io diciamo che sono legato a due percorsi, uno per motivi, diciamo così, di attaccamento alla Carnia, anche all'esperienza della Repubblica della Carnia, e uno perché è strutturato in maniera, ed è un percorso anche per chi vuole vedere anche l'architettura, il modo di costruire più pregiato della Carnia, è uno il cammino delle pievi. Si visita, si va da pieve in pieve, sono le nostre, sono delle pievi rurali, delle pievi agresti, dove si può vedere, oltre che alla qualità delle nostre maestranze nei tempi passati, anche a quello che c'è adesso attorno, no? Magari si arriva nella pieve mentre ci stanno occupandosi dello sfalcio i contadini, o mentre magari la signora sta coltivando l'orto che è magari vicino alla scalinata della chiesa. Sono delle realtà che sono molto, cioè che si misciano, insomma. E l'altro percorso sono le vie della Resistenza, che sono dei percorsi che vanno sui luoghi della Resistenza, dove ci sono più che altro luoghi belli proprio, perché diciamo che la Carnia, soprattutto la Carnia in quota, è una delle montagne più belle dell'arco alpino. Signore, ti ringrazio di essere pur là, popolo calcini della sua identità, e queste storie che aiuta a capire che in tutto il mondo si intanto prese a... Ma lo sai, Valeria, che io che nasco come donna di mare mi sto appassionando a questi paesaggi di montagna. Io non ci sono stata, però mi è venuta voglia di visitarli. E questo lo credo, perché comunque è sempre molto interessante, no? Ascoltare di quei posti che non conosci, ma che ti vengono veramente descritti con tanti particolari e che ti avvicinano a una natura che noi donne di città, e quindi diciamo cittadini proprio, che ha contatto poco più che solo con l'asfalto, li possiamo solo immaginare. E tu, Valeria, dove mi porti? E io ti riporto un po' più vicino alla nostra attuale casa, ti riporto in Lombardia. Chilometro zero. Per la destinazione a pochi chilometri da casa, questa settimana parliamo a milanesi e bergamaschi, che però immagino conoscano già bene il posto che ho scelto, perché ho scelto Crespi d'Adda, che è davvero un piccolo gioiello proprio in provincia di Bergamo. Si tratta di un villaggio di lavoro ideale, quindi in sostanza è un esempio di archeologia industriale. Però non dobbiamo farci trarre in inganno da questa definizione, perché uno, pensando all'archeologia industriale, magari non associa la definizione al concetto di bello. E invece questo piccolo borgo è proprio un posto bello. È un sito UNESCO, se non sbaglio, dal 95 circa. Prende il nome dai Crespi, che erano una famiglia di industriali cotonieri lombardi che a fine 800 realizzarono questo villaggio ideale accanto al proprio opificio tessile lungo la via bergamasca del fiume Adda. Quindi accanto alla fabbrica era organizzata tutta la vita degli operai. Questo perché il padrone doveva prendersi cura dei propri operai sia dentro che fuori la fabbrica, in modo tale che lavorassero anche meglio, per cui si prendeva carico delle loro necessità, avevano tutto quello di cui avevano bisogno a portata di mano, perché gli veniva data per esempio la casa con un orto a fianco, e in questo modo diciamo tutto il ciclo si svolgeva all'interno di questo borgo. Diciamo che si tratta di un modello che per noi al giorno d'oggi è piuttosto lontano, a meno però che è molto affascinante. Molto affascinante, forse in qualche modo dovremmo anche riscoprirlo, perché aveva sicuramente dei benefici che poi si riversavano anche proprio sul lavoro, sulla produttività. Valeria, allora abbiamo scoperto un altro bellissimo posto della Lombardia, col quale salutiamo gli ascoltatori anche per questa settimana, non prima di avere ringraziato chi ci ha assistito al di là del vetro, che è il nostro Filippo Aureggi. Anna, la mail, come ogni settimana, siamo lì per dimenticarcela. globetrotter24@radio24.it, mi raccomando, scriveteci tutti quelli che sono i vostri consigli, i vostri appunti. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla prossima settimana.